Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. 8 minuti, no, 16 minuti, l'8 indica l'ora, giustamente, 8 e 16 minuti per questa puntata che ci porterà all'avvio a prendere in esame qualcosa di diverso, l'attualità raccontata però in maniera decisamente differente da quello che abbiamo fatto finora in Visti da Fuori, la rubrica che ci accompagna per mano nei racconti, nei giornali, nelle lingue, soprattutto negli sguardi degli altri corrispondenti stranieri che vivono in Italia e che l'Italia la raccontano altrove. Prima però due annotazioni riguardo a puntate che ci sono state in precedenza. Ci hanno scritto, hanno lanciato una petizione su change.org, se volete andare a controllare e partecipare, sono già 20.000 le firme. Ebbene, si tratta della petizione alla regione Veneto: mantenete gli 8 treni interregionali della tratta Milano-Venezia che volete sopprimere, questo è il titolo. E sono stati aperti naturalmente diversi tavoli di dibattito su questo tema, l'abbiamo fatto il 14 agosto a questi microfoni, dando voce ai pendolari che devono affrontare diversi disagi in seguito a questa decisione che si può scongiurare. Se volete partecipare, fatelo pure. Alcuni ci avevano chiesto come rendersi utile. E poi ancora vi segnalo un volume e una riflessione di un cardinale amato da cattolici e laici, Carlo Maria Martini. Ebbene, è ispirata all'ultimo articolo del Simbolo degli Apostoli, e questo libro si intitola Credo la vita eterna, che trovate da oggi sul Sole 24 Ore. Infatti, Credo la vita eterna, anzi da domani, da sabato 24 agosto, sarà disponibile in edicola per un mese insieme al quotidiano, una sorta di testamento spirituale che, come scrive Giuliano Vigini, che è il curatore del volume uscito postumo a settembre del 2012, è destinato a lasciare risonanze profonde. Visti da Fuori ora, dicevamo, un modo diverso di raccontare l'Italia. È possibile che delle fotografie siano tutto ciò che si può sentire. Grazie ai Cure, naturalmente, per avercelo ricordato in questo vecchio brano, e grazie a coloro che ne fanno una testimonianza attiva, viva, ogni giorno col loro operato. Quindi saluto per una volta non un giornalista, attenzione oggi, ma un fotografo, Chris Ward Jones. Welcome, benvenuto Chris. Thank you, grazie a tutti. Ebbene, Chris Ward Jones è un fotografo che lavora tra gli altri per il New York Times, per il Time, per tutte le maggiori testate che si occupano d'Italia. E mi ha impressionato, Chris, scoprire quanti assignment, quante richieste di fotografie dall'Italia tu riceva ogni anno. A quanto ammontano? Ma varie centinaia, direi. Sicuramente non è strano questo, perché tra tutti i paesi che ci sono al mondo, sicuramente l'Italia occupa uno dei primissimi posti, non solo per la bellezza del territorio, ma per la cultura, per le città d'arte, per il cibo, per il vino. C'è un po' di tutto qui. Ma qual è la differenza tra l'attenzione che i giornali italiani pongono alla fotografia e l'attenzione che vi si ripone invece all'estero? C'è una sensibilità diversa? Beh, basta sfogliare un quotidiano. Sì, no, la differenza è lampante. Io non ho mai capito in verità il perché dell'uso di piccole fotografie, per esempio sulle prime pagine dei giornali italiani. E nei giornali esteri c'è di solito una fotografia pubblicata abbastanza grande, poi non è importante che occupi che parli del soggetto principale della giornata, l'importante è che ci sia una bella foto grande in prima pagina anziché dei francobolli piccolini dove si e per grande si intende proprio grande, cioè a volte che occupi anche mezza pagina a volte. Sì. E invece in Italia dicevi questi francobolli i francobolli che francamente non capisco, e dove si fatica appunto, dicevo, a capire anche il soggetto, le persone, magari un francobollo con 4-5 persone magari di politici non può interessare, non è una cosa che cattura l'attenzione subito. E soprattutto ci si chiede cosa aggiunge, cosa racconta rispetto a quello che è già scritto nel testo. Cioè in Italia c'è sempre una prevalenza del testo scritto. Sì, ma ci sono dei titoloni a volte cubitali che raccontano, poi l'occhiello si dice che riracconta quello che dice il titolo. Non è un modo, da noi chiaramente si dice che la foto vale mille parole e devo dire almeno in prima pagina, ma anche dentro nel giornale, nella rivista si dà molta importanza alle fotografie, non per nulla noi fotografi, specie nei giornali esteri, veniamo pagati abbastanza bene, ma per produrre queste immagini che veramente catturano l'attenzione del lettore. Siete coccolati, contesi, siete più importanti dei giornalisti che invece, forse anche questa è un'anomalia italiana, in questo paese vengono conosciuti per nome, cognome, in qualche modo vengono messi sempre su un piedistallo, diventano opinionisti, cioè i giornalisti in Italia hanno un peso che altrove non hanno, basti pensare all'Economist che nemmeno firma i pezzi, per esempio. Non per i giornalisti e non per i fotografi, anche le fotografie sono anonime. E su questo avrei da ridire chiaramente, però è un giornale che di questo ha fatto una battaglia, dice no, voi rappresentate il giornale, non siete persone singole con nomi e cognomi, siete il giornale, per cui si potrebbe anche capire in questo caso. Altri giornali invece omettono di mettere il nome del fotografo, non condivido per niente. Un fotografo è un autore e risponde direttamente delle immagini che fa. Adesso arriva la parte difficile per me, perché devo descrivere per radio le tue foto e quindi non ci provo nemmeno, potete andare sul sito, sono straordinarie, sono foto, anche i ritratti che raccontano i personaggi come non li avete mai visti, e ovviamente c'è tutta la creatività, la professionalità di un fotografo di questo calibro, altro non posso aggiungere. Vedo davanti a me un Roberto Benigni illuminato con una luce molto diversa da quella a cui di solito siamo abituati, e che si tiene le guance con uno sguardo quasi brigante, quasi birichino. Sì, dove è stata pubblicata questa foto? Questa è stata pubblicata sul New York Times, nella sezione cultura, è avvenuta questa foto in un'occasione dove Benigni veniva a farci visita alla stampa estera, e io ho un piccolo studio lì e gli ho chiesto se gentilmente veniva in studio qualche minuto, e lui è molto disponibile, è venuto, ci siamo divertiti molto, devo dire è un personaggio straordinario, battute dopo battute, ci siamo fatti delle belle risate, e questa foto così è venuta un po' per la mia direzione, un po' per l'improvvisazione che a lui nel sangue ce l'ha, e ha fatto appunto questa strana mossa di prendersi il viso tra le mani, che è venuta bene, insomma. Benigni è sicuramente un'icona dell'Italia, ma ci sono altre foto straordinarie, per esempio ci sono due persone che trasportano, e non si capisce al momento l'illusione ottica, uno specchio che riflette la parete di fronte, quindi sembra che trasportino un quadro, in realtà è uno specchio nel centro di Roma. Ci sono dei tortellini, cosa rappresenta questa foto dei tortellini tutti in fila? Cosa hai raccontato qua? Allora, in questa occasione ero nelle vicinanze di Modena, Lavorando per un giornale svedese, che peraltro devo dire gli svedesi son molto bravi con i fotografi, esigono molto, però trattano benissimo i fotografi. E in questa occasione ero appunto nella zona di Modena a fotografare le res d'ore, che sono delle anziane signore che trasmettono le tradizioni culinarie di quella zona. E succede che queste signore, in quell'occasione erano, se mi ricordo bene, 10-12 signore, tutte al di sopra dei 70 anni, e che vengono commissionati dai ristoranti per fare la pasta fatta in casa. E per cui anziché fare la pasta tutti i giorni in ristorante, chiamano queste signore, si fa la pasta in quantità enormi per una settimana e poi con la qualità artigianale e poi la si serve nei ristoranti. Beh, è incredibile come viene raccontata l'Italia all'estero, cioè su aspetti sui quali noi non ci soffermeremo mai. Per esempio, vedo la foto di tutti questi Gesù bambino di varie dimensioni adagiati in una sorta di teca, in vendita mi sembra, sono pezzi sì, da... Sì, beh, e questi negozi si sprecano intorno al Vaticano, e questo era un servizio fatto per la rivista americana Time sul commercio religioso intorno a San Pietro. Ci sono le cose bizzarre che si vedono lì, olografie del Cristo che apre e chiude gli occhi, appunto i bambini Gesù in tutte le forme, tutte le dimensioni. Sono cose abbastanza bizzarre. Visto che hai parlato di bizzarro, qual è la richiesta più bizzarra che hai ricevuto da un editor sull'Italia? Ma bizzarra, quella senz'altro era una delle richieste più strane, però è successo di tutto. Per esempio la spazzatura, mi sono trovato in mezzo alla spazzatura sia a Napoli che a Palermo, e quello fa un po' male, devo dire. Ti è spiaciuto raccontare quell'aspetto? Ma è piaciuto perché era una cosa inaspettata, interessante senz'altro, ma molto triste, visto che non, l'Italia non ne usciva affatto bene. Quando tu hai iniziato c'era la camera oscura, c'era la pellicola, sì. Com'è stato il passaggio al digitale per persone che hanno esperienze come queste? Traumatico. Però l'hai... Devo dire no, io ho fatto più di 25 anni in camera oscura ed è una cosa che manca al fotografo d'oggigiorno, e so che non si può combattere la tecnologia, so che il digitale è qui e rimarrà, ma tanti fotografi giovani che non hanno fatto esperienza in camera oscura non capiscono bene come inquadrare e il valore di certe cose nella fotografia. Io penso che un fotografo che debba intraprendere questa professione, che attenzione, sta diventando sempre più difficile, debba per forza almeno per un po' fare un'esperienza di camera oscura. E infatti tu hai incamerato bene le due esperienze, poi ovviamente utilizzi il digitale come le giovanissime generazioni. Qual è la foto che non hai mai fatto che vorresti fare, Chris? Difficile, una foto, secondo me una foto nemmeno pubblicabile. Io non sono dell'avviso che tutto deve essere fatto per essere pubblicato. È chiaro che quella è la mia professione e vivo di questo. Però delle foto che danno sensazioni che magari anche in privato un fotografo ama guardare le proprie immagini anche senza farle vedere, e questo è importante, tenersi per sé certi momenti e non volerle trasmettere agli altri per forza, basta averle una soddisfazione interiore, diciamo. Poi per i giovani è chiaro che l'importante è trasmettere emozioni attraverso le proprie foto. E devo dire, non perché tu sia ospite di Radio 24 oggi, che decisamente, scorrendo semplicemente così un campionario presente nella tua galleria e sfogliando alcuni dei giornali sui quali hai pubblicato, tu hai decisamente colto nel segno quando si parla di emozioni. Chi le volesse vedere, è un'esperienza che vale la pena. www.world Jones.net, mi permetto anche di dare il tuo sito, perché è veramente un'esperienza che ha fatto discutere anche noi qua in redazione quando ieri ti abbiamo scoperto, Chris. Grazie, ne continua a raccontare l'Italia col tuo obiettivo, Chris Ward Jones. Arrivederci e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, buongiorno. Chris Ward Jones, oggi ospite di Visti da Fuori, la rubrica dedicata ai corrispondenti esteri, racconta l'Italia non con la parola, ma come avete sentito, con la fotografia. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ha commosso la storia del ragazzo di 21 anni, lo stagista morto a Londra perché aveva lavorato per 3 giorni di fila. Una storia drammatica, 3 giorni consecutivi dalle 9 alle 6 di mattina bevendo caffè a ripetizione per stare sveglio, che ha riaperto in Gran Bretagna, ma non solo, le polemiche su questo iperlavoro, sullo sfruttamento dei più giovani. E in Italia cosa succede nel mondo degli stagisti? Quanti sono, cosa fanno, che aspettative hanno e che possibilità hanno che quell'esperienza diventi qualcosa di più duraturo, se non un contratto a tempo indeterminato, ma almeno il primo passo per l'inserimento nel mondo del lavoro. E dall'altra parte le aziende sono tutte semplicemente interessate a utilizzare della manodopera pagata poco o non retribuita, o invece c'è anche chi si avvale di questa ricchezza, di questa possibilità e punta sulla valorizzazione delle risorse umane? Stagisti, l'arcipelago stagisti, ne parleremo alle 9 nella rubrica sempre Spunti di Vista all'800 24 00 24. Prima però ci occuperemo di un altro drammatico fatto di cronaca. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me. Beh, questa è la voce di Kurt Cobain, colpito come tanti di noi da una vicenda che aveva per protagonista una ragazzina americana di 14 anni che era riuscita a convincere un pedofilo che la teneva prigioniera, conquistandone la fiducia faticosamente, convincere a lasciarla andare. Noi in questi giorni abbiamo preso in esame una storia che ieri è stata pubblicata sulla prima pagina di Repubblica, firma Attilio Bolzoni, che l'ha portata alla luce, e si parla di un condannato per pedofilia, aveva abusato di una bambina vicina di casa qui in Italia, ora per la precisione a Roma, ma non intendiamo né localizzare né dare troppi dettagli sulla vicenda specifica in sé, ma intendiamo interrogarci su alcune vicende che sono emerse da questa narrazione della cronaca. La Corte d'Appello della Capitale ha revocato il divieto di dimora che pendeva su quest'uomo, che dunque può tornare a vivere accanto alla tredicenne di cui aveva abusato per 3 anni quando era piccolissima, insomma in età prescolare. E si raccontava ieri del dramma di questa bambina, delle richieste alla madre perché questo è tornato, dell'incubo che si ripropone e naturalmente di aspetti psicologici devastanti. Ci si chiede come è stato possibile, soprattutto quali sono gli strumenti legislativi nelle mani dei giudici per far sì che questo non avvenga, e perché la vittima, e soprattutto una vittima bambina che già ha tanto sofferto, non può essere tutelata. Parlavamo ieri in una trasmissione dedicata alla possibile referendum sull'abolizione, eventuale abolizione dell'ergastolo, di questa percezione in Italia di un mancato senso di giustizia. C'è quasi una sensazione nell'opinione pubblica, anche tra voi che ci avete segnalato diversi casi e siete intervenuti più volte nelle nostre trasmissioni per dircelo, la sensazione è che le pene non siano adeguate a volte al crimine, al delitto che viene giudicato. Soprattutto in questo caso, un'altra dose di sofferenza inferta a una bambina che non viene tutelata. Con quali conseguenze? E per discuterne abbiamo con noi oggi il professor Luigi Cancrini, che ringrazio. Buongiorno, dottore. Dottor Cancrini. Buongiorno. Buongiorno, è il direttore del centro di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia. Lei è uno psichiatra e ieri ha puntato il dito contro l'insensibilità di questa decisione. È un errore questa decisione, nel senso che la bambina ha subito un danno negli anni passati e su questo c'è una sentenza, c'è stata una pena, ma la bambina subisce un danno oggi dalla presenza di questa persona nelle sue immediate vicinanze. Sono gli aspetti psicologici del danno che sono stati, secondo me, seriamente, gravemente sottovalutati dai giudici in questo momento. L'abuso sessuale non è soltanto una violazione dell'intimità con un danno biologico per la vittima, è qualcosa che incide sulla sua crescita, sul suo equilibrio psichico, è qualcosa di molto importante rispetto al suo futuro. Che la bambina rimanga esposta alla sensazione di questa persona che le gira più o meno intorno, al piano di sopra, da quello che si legge dal giornale, insomma, a me sembra veramente una follia, ecco. Una sottovalutazione grave delle conseguenze psicologiche di questa situazione. E quindi una bambina che ora paga per questa decisione folle, come lei l'ha definita, e si trova a pagare due volte. Ma poteva andare diversamente? I magistrati avrebbero potuto interpretare la legge, utilizzare quello che il codice penale mette loro a disposizione in maniera diversa? Ma sicuramente sì, l'avevano già fatto, perché l'obbligo di dimora lontano da questa situazione già c'era. I magistrati l'hanno tolto, invece avrebbero dovuto mantenerlo. Il problema però secondo me è un po' più complesso, diciamo, nel senso che quella che manca è una consapevolezza anche del legislatore di quella che è la situazione di queste persone. Parlo adesso dell'abusante, diciamo, no? Un abusante che per 5 anni abusa appunto di una bambina molto piccola è tecnicamente un pedofilo. E pedofilo è una persona malata. Allora, lì nella sentenza che è stata detta, è stata spiegata, diciamo, si dice che non c'è rischio di reiterazione del reato, ma questo è proprio un errore di fondo, nel senso che una persona malata con una certa facilità purtroppo può ricadere in questo tipo di situazioni, e una sorveglianza accurata nel tempo sarebbe quanto mai importante. Ma ancora più importante sarebbe che il legislatore prevedesse la possibilità di cura per queste persone. Obbligatoria, lei intende. Chi viene condannato per abuso sui minori va in carcere abbastanza spesso, diciamo circa il 50% dei processi comunque si conclude con una condanna. Il problema però è che le pene sono corte e che nel corso di questa espiazione con la pena non c'è nessun intervento terapeutico, non c'è nessun tentativo di modificare l'assetto psicologico di persone che stanno male. Dottor Cancrini, ci sono curarsi e anche il diritto ad essere curate. Dottor Cancrini, ci sono paesi che potrebbero essere presi a modello delle pratiche, delle procedure che si adottano altrove e che hanno dato risultati? In Belgio c'è la possibilità di cura per la persona che ha fatto abuso sui minori, che è stata colpita abuso sui minori. È chiaro che la cura è una cura psicoterapeutica di lunga durata e che si accompagna ad una serie di provvedimenti in cui, diciamo, il tentativo di riparare al danno che si è fatto, per esempio tenendosi lontano dal luogo in cui la bambina vive, insomma, sono parte integrante. La psicoterapia è un'attività durante la quale la persona deve essere aiutata a rendersi conto della gravità di ciò che ha fatto, deve raggiungere un pentimento vero, un senso di responsabilità che questa persona non dimostra. Cioè, io penso che se questa persona torna ad abitare lì senza curarsi delle conseguenze che il suo abitare lì determina su questa bambina, continua a farle del male e dimostra con ciò di non essere guarito. Ecco, questo a me sembra una cosa, come dire, semplice e di buon senso. È abbastanza evidente. Maria Monteleone, buongiorno. Buongiorno. Maria Monteleone è procuratore aggiunto alla Procura di Roma, anzi, nello specifico, coordina il pool di magistrati contro la violenza sessuale e la violenza in famiglia, e quindi ha molta dimestichezza con questo tipo di tematiche. Come ha sentito, ora si dice, i magistrati sono stati insensibili all'esigenza della bambina guardando semplicemente l'aspetto legale, ma avevano la possibilità di agire diversamente? Le rivolgo la stessa domanda. Dunque, innanzitutto io vorrei dire che ho ascoltato quanto ha dichiarato il professor Cancrini, che saluto naturalmente, e non posso che sottolineare che condivido pienamente le sue considerazioni e le sue osservazioni, e mi riferisco in particolare a quella relativa nella quale ha affermato che la bambina ha subito non soltanto un danno nel momento in cui il reato è stato commesso, ma lo subisce anche oggi come conseguenza di questa decisione. E condivido anche la sua affermazione circa la mancanza di consapevolezza nel legislatore di una adeguata valutazione delle esigenze di interventi, io dico anche di tipo legislativo, finalizzati ad evitare nel pedofilo il rischio e il pericolo di recidiva, rischio e pericolo che a mio avviso in questo caso è certamente concreto. Io vorrei fare due considerazioni su questo caso. Dobbiamo tenere presente che i magistrati nella interpretazione ed applicazione della legge si trovano a dover cogliere e individuare un equilibrio molto difficile tra il rispetto dei diritti dell'imputato, del condannato e un'adeguata tutela della vittima. Nello stesso tempo devo dire che il nostro legislatore molto faticosamente si sta avviando verso un sistema processuale che consenta di tenere conto adeguatamente delle esigenze della vittima del delitto, perché è innegabile che il nostro sistema è un sistema incentrato soprattutto nella tutela e nelle garanzie dell'indagato e dell'imputato e molto meno di quelle della vittima. Ora non c'è dubbio che in questo caso è un'affermazione forte questa. Quindi certo, lei per prima ammette che c'è questa situazione evidente, quindi non è solo una percezione dell'opinione pubblica come spesso si dice, cioè bisogna in qualche modo correggere gli strumenti legislativi. Lei tra l'altro è una di quelle che è stata chiamata, ha avuto modo anche recentemente di dare il suo contributo alle audizioni, ha fatto audizioni nelle commissioni giustizia e alcune delle sue indicazioni sono state recepite, bisogna dire. Ma in effetti faccio riferimento proprio a questa esigenza. Devo dire che il nostro legislatore, ovviamente come purtroppo accade spesso, in ritardo, ma anche nonostante questo dobbiamo prendere atto che recentemente ha dimostrato e ha dato atto di una particolare sensibilità verso queste tematiche. Voglio ricordare che l'entrata in vigore della legge di conversione della Convenzione di Lanzarote ha introdotto delle significative modifiche legislative, però vorrei aggiungere una cosa che secondo me è decisiva per comprendere anche le ragioni per le quali questa decisione, che sicuramente non è condivisibile, è stata adottata. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E buongiorno ancora da Irene Zerbini. Io capisco che vogliate intervenire e questo sarà possibile dopo le 9 all'800 24 00 24 sulla tematica dello sfruttamento degli stagisti. Su questo tema abbiamo preferito non ricordare il numero di telefono, non invitarvi a esprimere semplicemente emozioni, a meno che siate magistrati o qualcuno che può contribuire a cambiare questa realtà, perché vorremmo soprattutto capire cosa occorre fare. Per questo prendiamo la telefonata dell'avvocato da Teramo che ci chiama. Buongiorno avvocato Vincenzo, dico bene? Esatto, buongiorno. Dica. Buongiorno a tutti. Volevo intervenire e agganciarmi all'ultimo intervento della professoressa, mi pare, a proposito del nostro sistema legislativo. nel nostro sistema legislativo la vittima è vista come una parte accessoria del processo. Questo poi riverbera i suoi effetti anche nella fase successiva, nell'esecuzione della pena. E questo è un esempio di quello che è successo, l'esempio, quello che è accaduto, l'esempio del sistema. Io proporrei, semmai, per reati di questa natura, così come è previsto l'interdizione dai pubblici uffici, una interdizione permanente dall'avvicinare la vittima, quindi evitare la discrezionalità del magistrato, che può decidere semmai poi di consentire alla vittima, una volta che è tornata in libertà, diciamo tornare a vivere addirittura nel piano di sotto dello stesso palazzo. Grazie avvocato. Torniamo dunque col procuratore aggiunto alla Procura di Roma, Maria Monteleone. Ha sentito anche questo stimolo, interdizione permanente dalla possibilità di tornare a vivere nello stesso palazzo. Questo è un problema che si pone spesso una volta scontata la pena, una volta pagato il debito con la società, come si diceva, e spesso vittima e carnefice sono contigue, vivono, sono vicini di casa in questo caso, ma comunque vivono nello stesso paese. Sono molteplici casi in cui si è verificata una situazione di questo tipo. Che fare? Guardi, io volevo completare, fare una mia ulteriore considerazione su quanto è stato detto in precedenza, sottolineando che se il decreto legge sulla violenza di genere, che è stato emanato il 14 agosto di quest'anno, fosse entrato in vigore prima, molto probabilmente questa decisione, diciamo, non condivisa non ci sarebbe stata, perché questo decreto legge prevede espressamente che prima di modificare o revocare una misura cautelare debba essere necessariamente informata la parte offesa e il suo difensore, e che abbiano possibilità entrambi di interloquire con il magistrato in ordine alla richiesta di modifica o revoca della misura. E quindi dico che se questa norma, entrata in vigore il 14 agosto di quest'anno con il decreto legge sulla violenza di genere, fosse stata adottata in precedenza, probabilmente noi oggi non saremmo qui a discutere di questo problema. Per quanto riguarda la proposta dell'avvocato che ho appena ascoltato, devo dire che ovviamente non si tratta di una pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici. In realtà io sono dell'avviso, ma ho avuto modo di rappresentare questa mia personale convinzione anche alla Commissione Giustizia della Camera, io ritengo che possa essere valutata con adeguata attenzione la possibilità di introdurre una nuova pena accessoria. La pena accessoria ha la caratteristica di essere applicata di diritto dal giudice, quindi consegue automaticamente ad una sentenza di condanna definitiva. La pena accessoria, che io ipotizzo, che secondo me potrebbe svolgere un ruolo importante anche in funzione delle ragioni e delle finalità che ha evidenziato il professor Cancrini quando ha detto che il pedofilo è un soggetto a rischio elevatissimo di recidiva, e io condivido questa sua valutazione. Qual è la pena accessoria? La pena accessoria, a mio avviso, può essere quella di impedire per un periodo che vada da un minimo di 5 anni, ma prorogabile eventualmente dal giudice, vietare al condannato di risiedere, di morare o comunque avvicinarsi alla parte offesa, cioè alla vittima del delitto per il quale lui stesso è stato condannato. E quindi in questa maniera, in qualche modo, mettere in sicurezza la vittima anche dopo che il condannato ha espiato la pena principale. È una pena accessoria che ha delle caratteristiche particolari che, a mio avviso, assicurano e garantiscono dal rischio di una recidiva specifica, cioè che riguardi esattamente la vittima di quel delitto per il quale un soggetto è stato condannato con sentenza definitiva. Dottor Cancrini, quindi, come ha sentito, l'esigenza della tutela della vittima si fa sentire sempre di più. Dall'altra parte, lei ha a che fare con dal suo osservatorio del Centro del Bambino Maltrattato con diversi, moltissimi casi in cui le sembra si chiuda un po' gli occhi su quelle che sono le esigenze e le sofferenze dei bambini. Passano davvero in secondo piano in Italia i bambini abusati? Ma guardi, io dico sempre che quando un bambino fa una denuncia relativa ad un abuso che ha subito, dobbiamo tener conto del fatto che la gran parte di questi abusi avvengono in famiglia, sono circa l'85-90% dei casi. Da questo punto di vista il caso di cui stiamo parlando è atipico. Ora, il bambino che denuncia un familiare, per esempio il padre o il nuovo compagno della madre, è un bambino che si mette sulle spalle il crollo della famiglia di cui fa parte. Un bambino che ha 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni è responsabile con le sue parole del fatto che nulla di quello in cui lui è vissuto fino ad allora esiste più, né dal punto di vista dell'organizzazione né a volte dal punto di vista economico. Ci sono ragazzine che ritrattano perché la mancanza di stipendio che portava in casa il padre era l'unica fonte di sostentamento di un'intera famiglia. Ora vede, io sono particolarmente colpito da quello che è stato detto anche dalla dottoressa Monteleone sulla scarsa tutela che c'è nel nostro sistema giuridico della vittima. La vittima che denuncia va aiutata seriamente sul piano della terapia per il trauma che ha subito quando è un bambino, sul piano della protezione. Sul piano economico che lei ha appena citato anche e che spesso sfugge. Organizzativo che spesso sfugge, per questo dico che il bambino spesso, anche se la giustizia penale interviene, anche se ci sono dei provvedimenti limitativi diciamo rispetto al riavvicinamento e così via, però si deve tenere presente quello che questi bambini pagano in termini diciamo di peso sulla vita. L'altra cosa che volevo dire è questa: è giusto che la persona non possa più riavvicinarsi alla sua vittima precedente, però la pedofilia è un problema di patologia ed è legato al fatto che c'è una attrazione specifica per la soddisfazione dell'istinto sessuale, una attrazione specifica legata ai bambini. Allora, c'è stato un caso in Inghilterra alcuni anni fa di un signore che era stato condannato per pedofilia e che ha recidivato dopo 15-20 anni, essendo riuscito a farsi assumere come bidello in una scuola. E vede, il problema è che certo ci sono problemi di privacy della persona che ha scontato la sua pena, ma insomma, se ci si trova di fronte a una patologia, io credo che proteggere colui che ha commesso un certo reato e che ha tendenza a commetterne di nuovo passa attraverso la cura e la sorveglianza ed è una protezione di lui. Ecco, non so se sì, è stato molto chiaro. Lei tra l'altro ha scritto l'introduzione a un libro, Abuso sessuale sui minori, scenari, dinamiche e testimonianze, di Giuliano Alzai, che saluto e ringrazio per il suo tempo, di prossima pubblicazione con Antigone, che ha il pregio di aver analizzato tutta una serie di sentenze, primo grado, secondo grado, Cassazione, dal punto di vista semplicemente quantitativo, dal punto di vista statistico, diciamo così. Buongiorno Giuliano Alzai. Buongiorno. E che idea si è fatta da questa analisi quasi scientifica? Cosa occorrerebbe fare? Ma guarda, l'interrogativo che può sembrare un po' provocatorio, ma che mi esce spontaneo proprio alla luce dei risultati dello studio che ho condotto su questi casi di violenza sessuale pubblicati dal Tribunale Penale di Roma, e mi chiedo: esistono davvero le punizioni per gli abusanti? Perché insomma alla fine diciamo la pena detentiva media si aggira intorno ai 2 anni, no? Diciamo buona parte dei condannati per violenza sessuale, per oltre la metà sussistono le condizioni e i presupposti del beneficio della sospensione condizionale della pena e generalmente con la presunzione, no, che questi nel futuro non possano commettere un simile reato e non solo. A quasi un terzo di questi viene pure concesso il beneficio della non menzione. E allora insomma ci poniamo degli importanti interrogativi anche, no? Sull'attuale legge e sul fatto anche che questa legge possa essere il riflesso, diciamo, di una disciplina che di nuovo ha solo l'aspetto esteriore, ma che in realtà, no, rimane ancorata, diciamo, a concezioni culturali storicamente superate. Grazie a Giuliano Alzai, al dottor Luigi Cancrini, al procuratore aggiunto alla Procura di Roma, Maria Monteleone. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, è arrivato il momento di dare la linea al giornale radio. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E tra i mille aspetti dell'attualità ritorna sempre incessantemente, l'avete notato con quale frequenza, il tema del lavoro. Oggi ci dedichiamo a un segmento dell'occupazione che un po' a cavallo, che dovrebbe essere la porta d'ingresso, anche quella privilegiata, perché eviterebbe sistemi clientelari, sistemi di conoscenza d'amicizie, reti più o meno informali che, come abbiamo sentito anche in puntate precedenti, devastano, rendono meno competitivo, meno appetibile e sicuramente più ingiusto il mondo del lavoro in Italia. Stiamo parlando di stage, ecco, abbiamo detto come dovrebbero essere, cosa dovrebbero essere, la realtà è ben diversa. In questi giorni ci siamo concentrati sul mondo degli stagisti perché ha fatto notizia e naturalmente ha commosso la morte di Morris Herold. Chi è Morris Herold? Aveva 21 anni e i colleghi hanno raccontato che negli ultimi tre giorni prima di morire questo stagista aveva lavorato per 21 ore di fila, per tre giorni consecutivi. Una storia la sua che naturalmente ha riacceso i riflettori sulle condizioni in cui lavorano stagisti, in questo caso anche pagati. Qui non c'era il problema della mancata remunerazione, anzi riceveva nella banca in cui lavorava un salario, un rimborso spese, adesso non so come fosse inquadrato questo tipo di remunerazione, superiore ai 3.000 euro. Quindi non c'era la solita appendice odiosa del mancato rimborso spese, del mancato salario. E nonostante questo, questo ragazzo ha pagato con la vita la voglia che spesso caratterizza gli stagisti, inevitabilmente più ricattabili degli altri, di mettersi in mostra, di farsi notare perché la posizione poi venga confermata. Every job I offer is to keep you at the dock. Now we are opportunity, the one that never knocks. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the German gulag. Allora, noi speriamo di sentire anche il racconto di esperienze positive vostre, di qualcuno che dopo lo stage si sia sentito non solo assunto o confermato in termini di contratto, ma anche valorizzato, che senta di essere cresciuto, di aver imparato, di potersi poi giocare queste carte anche in esperienze successive, perché ci sono anche aziende che utilizzano lo stage in maniera corretta e che traggono da queste risorse che le università in generale mettono a disposizione una sorta di vivaio a cui attingere, a cui guardare con molta attenzione. Tutte le realtà che caratterizzano gli stage in Italia sono molto ben conosciute, raccontate, raccolte da una testata online, si chiama Repubblica degli Stagisti, 300.000 visite a settimana, e questo già dà un'idea di quante persone siano coinvolte in questo tipo di esperienza. E con noi c'è la fondatrice Eleonora Voltolina. Buongiorno, benvenuta Eleonora. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. E tu per prima ti sei occupata di dar voce, di dare visibilità a un fenomeno che ormai da anni attraversa il mercato italiano. Ma quanti sono gli stagisti in Italia? Diamo qualche numero. Allora, il numero che noi diamo come Repubblica degli Stagisti è un numero indicativo ed è 500.000 all'anno. Dico indicativo perché purtroppo un vero censimento degli stagisti a tutto tondo non esiste. C'è una rilevazione molto autorevole che fa Union Camere, l'Unione delle Camere di Commercio Italiane, che ogni anno censisce gli stagisti delle imprese private, e quindi ci sono circa poco più di 300.000 stagisti ogni anno nelle imprese private. Però noi sappiamo che il fenomeno dello stage non riguarda solamente le imprese private, perché sempre più stagisti vanno a fare percorsi formativi negli enti pubblici, che molto spesso si giovano dell'apporto di questi giovani proprio nei casi in cui sono nei blocchi delle assunzioni, nei blocchi dei turnover, magari hanno buchi di organico, e quindi questi stagisti a volte sono veramente molto utili utili negli enti pubblici, e poi anche paradossalmente addirittura anche le associazioni non profit stanno cominciando ad accogliere sempre più stagisti. Potrebbero avere i volontari, però a volte le associazioni non profit ai volontari affiancano anche gli stagisti, quindi diciamo che facendo una proporzione con il numero certo degli stagisti nelle imprese private, noi facciamo poi una proporzione su quello che potrebbero essere gli enti pubblici e quello che potrebbero essere le associazioni non profit, e arriviamo a questo numero enorme che è 500.000 di stagisti ogni anno. Qua abbiamo aperto questa trasmissione parlando della testimonianza di Morris, la vicenda di Morris Erhard, che aveva 21 anni. Ora, la polizia ha detto che Erhard è morto per cause naturali e i suoi colleghi hanno confermato che gli stagisti sono tenuti a lavorare senza orari, cioè non si fermano mai praticamente, non in tutti i casi, ma esistono realtà di sfruttamento in termini d'orario anche in Italia? Allora, diciamo che qui bisogna fare un discorso molto realistico. Lo stagista va a fare una prova, sostanzialmente un'esperienza in un determinato settore lavorativo. Quindi gli orari dello stagista ovviamente ricalcano gli orari di quel settore lavorativo. Se per esempio abbiamo uno stagista in un giornale, no? Una testata cartacea, si sa che il lavoro vero comincia a mattina inoltrata, magari verso le 11 giorno, e però avanti fino alle 8, 9, 10 di sera, perché questi sono gli orari più o meno della carta stampata. Quindi sarebbe assurdo fare uno stage in un giornale e presentarsi alle 9 della mattina e poi alle 18 far cadere la penna e andare via. Di uscire alle 5, questo è chiaro. Allo stesso modo, nel settore delle banche d'affari, come era quello del povero ragazzo morto, oppure delle società di consulenza, si sa che gli orari sono molto importanti, sono molto stressanti. Perché? Perché si lavora molto spesso su obiettivi, si lavora su clienti, su chiusure di progetti, e quindi è ovvio che anche lo stage deve ricalcare l'orario di lavoro che poi verrà fatto nel caso quella persona venisse assunta. È ovvio però che il datore di lavoro deve essere responsabile e tenere sempre a mente che quello che ha nel suo ufficio non è un lavoratore salariato a cui si possono chiedere straordinari di fare le ore piccole o di lavorare appunto 15 ore in un giorno perché c'è una scadenza. Per gestire le scadenze ci devono essere i lavoratori qualificati. Se poi il ragazzo, lo stagista, vuole fare per la sua esperienza, vuole affiancare e quindi magari per un giorno o due provare a fare anche questi orari pazzi, può farlo e può essere anche magari utile per lui. Certo. Però, Eleonora, senti, parlando di stage o di internship, come si dovrebbe dire in inglese, alcuni ascoltatori un po' pedanti e che hanno poco da fare ci segnalano come tu parli di stage e dovresti invece dire internship oppure stage, perché il termine è francese, ma ormai del fenomeno si parla indicandolo in questo modo. Parlando di questo, quanti degli stagisti in percentuale ricevono al termine dell'esperienza una proroga dello stage o dello stage o una proposta di lavoro anche a tempo determinato? Allora, pochissimi. La percentuale di assunzione al termine dello stage è di 1 su 10, 10%. Questa quando parli di assunzione tu parli di contratto, quindi anche a tempo determinato? Contratto, qualsiasi tipo di contratto, è sempre una rilevazione di Union Camere, non è precisissima perché appunto non prevede diciamo di dire esattamente quali tipologie contrattuali vengono poi fatte agli stagisti. Si fa ai datori di lavoro del campione, che è un campione enorme, una domanda generica su se hanno assunto lo stagista, e il risultato è che solo uno stagista su 10 viene assunto. Per non parlare poi neanche a parlarne degli stage negli enti pubblici, che come ben si sa non possono aprire una porta sul mondo del lavoro, perché poi negli enti pubblici si deve o si dovrebbe entrare tramite concorso. Grazie. E quindi, Chiara, approfondiamo anche questo aspetto con Chiara Bisconti, è assessora al benessere del Comune di Milano. Lei è un tecnico della giunta milanese che ha delega, oltre ad essere assessora al benessere, alla qualità della vita, anche delega sulle risorse. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Senta, assessore, ha sentito gli stage nel pubblico non possono aprire la porta, diciamo così, a una forma d'occupazione automatica, immediata. E dunque perché si fanno e chi richiede stage, per esempio in comune o nei servizi sociali? Ah, dunque, partiamo dall'affermazione finale che avete fatto, che è molto corretta, e ne approfitto io per fare una richiesta. Che gli stage e anche tutta questa ricchezza che poi vi racconto del servizio civile, che poi è la cosa forse più ricca che possono avere le amministrazioni pubbliche, possano quantomeno essere valorizzati all'interno dei concorsi che giustamente poi devono essere fatti per accedere all'amministrazione pubblica. Ad oggi questo pezzo manca. E se cioè, scusi, norma... in che senso manca? Non si può mettere, cioè, una volta diciamo che si fa il concorso, il candidato non prevede, esatto, nessuna valorizzazione, che siano punteggi aggiuntivi, che siano non ci sono credit in più per aver fatto uno stage. No, purtroppo no, invece questo meccanismo sarebbe sano, perché appunto farebbe un minimo di contatto tra un'esperienza lavorativa fatta in amministrazione pubblica e la possibilità di avere dei riconoscimenti aggiuntivi nel concorsi che poi permettono di entrare in amministrazione. Giustamente il meccanismo del concorso dell'amministrazione pubblica è chiaramente sacrosanto e va mantenuto, però la valorizzazione dell'esperienza sarebbe un buon passo avanti. Dico questo perché l'amministrazione pubblica, in particolare io conosco adesso il Comune di Milano, offre delle ottime opportunità sia di stage class, quindi lo stage curriculare da fare durante o appena finita il periodo di studio, quindi entro i 12 mesi dell'università, ma soprattutto ha diciamo rilevato il vecchio servizio civile, quindi l'alternativa al servizio militare quando era in corso, e tramite progettualità sviluppata con ANCI e col Ministero permette di fare questi periodi lavorativi di un anno, quindi molto interessanti, come piccola retribuzione intorno ai 400 euro per la persona, ma soprattutto con un orizzonte temporale di un anno e quindi la possibilità di accedere a progetti che sono molto interessanti dal punto di vista proprio della ricchezza di esperienza che un ragazzo, un neolaureato può fare. È già un ragazzo che richiede uno stage o uno stage che dir si voglia di questo tipo ha delle motivazioni decisamente orientate verso la collettività, perché se lei dice non verrà utilizzato, se lui domani facesse, lui o lei facesse un concorso, non verrà premiato per averlo svolto, non porta un'occupazione immediata, direi che questo stagista del pubblico incarna appieno quella che dovrebbe essere la molla che muove a lavorare nel servizio pubblico. Cioè, in realtà è un ottimo, dico solo velocemente, è un'ottima opportunità, intanto appunto è retribuito anche se poco, ma è un ingresso comunque nel mondo del lavoro, ha questa particolarità per me che vengo dal privato e quindi vedo la ricchezza che invece l'amministrazione pubblica nasconde, tra virgolette, di fare esperienze lavorative veramente diverse, veramente peculiari. E siccome ad oggi per una persona che fa il servizio civile l'unica ricchezza è metterla nel curriculum, io che ero un ex direttore del personale riconosco il fatto che un'esperienza così diversa, che apre così la testa, così ricca, può essere molto interessante poi per entrare in un'azienda o per immettersi in un percorso più tradizionale. Lei era il direttore del personale, tra l'altro, di un'azienda che ha ricevuto il bollino blu da parte della Repubblica degli stagisti, nel senso proprio per le non solo le buone pratiche, ma la valorizzazione degli stagisti. In che modo un'azienda, un'impresa, una ditta che dir si voglia può utilizzare questa forma prevista dall'ordinamento italiano dello stage a proprio vantaggio, a proprio beneficio e non solo come manodopera pagata poco o sottopagata? Ma noi ci eravamo dati delle regole molto precise che portassero il beneficio a entrambi, la filosofia win-win, veramente cercavamo di applicarla a tutti i campi, quindi i benefici derivano dal fatto che per noi lo stage era possibile sempre e solo se dietro c'era una possibilità di assunzione, quindi per noi lo stage era da attivare non come manodopera appunto aggiuntiva rispetto al mole di lavoro indistinta, ma sempre quando all'interno dell'organigramma si apriva una posizione ricopribile. Quindi le regole erano due: uno, che ci fosse una casella vacante che propedeutica al fatto che se il ragazzo o la ragazza avessero performato bene sarebbe stato assunto, e due, di non reiterare mai lo stage più di una volta, che è una bruttissima abitudine che hanno le aziende di continuare a portare avanti questi stage. La nostra regola è che 6 mesi per noi era il tempo sufficiente per valutare le capacità del ragazzo o della ragazza, e quindi allo scadere dei 6 mesi o mandare il ragazzo via perché non aveva le capacità sufficienti, oppure trasformarlo in un contratto a tempo determinato propedeutico poi a un'assunzione. Quindi queste per noi erano regole molto rigide che portano però appunto al non abuso tra virgolette di questa forza lavoro, ma invece in un inserimento molto serio in un percorso di lavoro. L'altro aspetto è che c'era un buon riconoscimento economico e anche la possibilità per lo stagista di accedere a tutte le facilitazioni che l'azienda offriva, per cui dalla mensa ovviamente, ma anche la palestra. Quindi era veramente un inserimento da subito nella forza lavoro, già considerato come possibilità di rimanerci, ovviamente a condizione che poi la persona performasse bene. Questa è la filosofia adottata da quegli uffici di risorse umane che considerano avere accesso a giovani e quindi a portatori per antonomasia di innovazione un'opportunità anche per l'azienda, e non solo un'opportunità che danno al ragazzo o alla ragazza. Un'impostazione molto importante, una differenza d'angolatura che poi si traduce in pratica nella vita quotidiana in rispetto, in trasmissione di sapere, non solo utilizzo dello stagista in maniera meccanica così per coprire dei buchi e non pagarlo. Domenico De Masi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Domenico De Masi è un noto. Ho ascoltato con molta attenzione quello che avete detto. È un noto sociologo del lavoro. Pochi sanno che lei stesso ha organizzato, non organizzato, ma diciamo così, coordinato, seguito degli stagisti, in quanto lei aveva posizioni di responsabilità in un'università. Quale? Beh, io sono stato preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università di Roma. La Sapienza, quindi 15.000 studenti, oltre 200 professori, insomma quasi una cittadina diciamo della comunicazione, e in quel caso detti molta importanza agli stage per il semplice fatto che a mia volta venivo dall'azienda e nell'azienda avevo visto gli stage dall'altro punto di vista, appunto dell'azienda che riceve, e siccome lo stage è un incontro, è una specie di fidanzamento diciamo tra il giovane e il lavoro che farà poi, tra il giovane e l'azienda, tutto questo va curato ovviamente, va curato da entrambi le parti, è giusto tutto quello che sentivo. L'unica cosa tra le cose che ho sentito che mi lascia un po' perplesso è la normalità con cui si pensa a orari infiniti. Questo è un danno enorme delle aziende, soprattutto dei paesi latini, di avere inizi di lavoro a ore fisse e termini che non terminano mai. 10-12 ore al giorno sono un vizio soprattutto dei manager che si sa quando vanno in ufficio e non si sa quando escono. Trasmettere tutto questo è uno dei vizi che si possono trasmettere, cioè in azienda si può apprendere cose importantissime, ma si può anche apprendere cose negative, ci si può anche deformare. Ecco, la mia attenzione è stata quella di evitare la deformazione, non solo di carattere professionale, ma di carattere umano, perché le imprese spesso educano alla competitività invece che alla solidarietà, al lavoro come fine anziché al lavoro come mezzo, al lavoro come dovere e sacrificio anziché al lavoro come gioia e autorealizzazione, al lavoro come specializzazione troppo spinta invece di quel lavoro che io insomma provocatoriamente chiamo ozio creativo, cioè qualcosa in cui confluisca sia il lavoro, sia lo studio, sia diciamo il divertimento, il gioco. Quindi bisogna essere molto attenti quando si manda un giovane a fare uno stage, bisogna seguirlo, purtroppo non sempre lo si fa e purtroppo non sempre le aziende sono come quelle di cui ho ascoltato adesso, con tanta cura per il giovane. Seguirlo, quindi lei dice, professor De Masi, non solo dal punto di vista della retribuzione, cioè spesso gli stagisti, il primo aspetto che lamentano è la mancanza di salario, e se volete scorrere qualunque sito che offra lavoro troverete delle offerte bizzarre, per esempio si chiedono stagisti con esperienza 2 anni e si precisa poi che la posizione non è retribuita, e questa è un'anomalia, è una distorsione ovviamente. dell'uso dello stage. Lei invece punta il dito anche sulla responsabilizzazione di colui che diventa un modello, perché accanto al giovane, al neolaureato, ci dovrebbe essere una posizione più esperta, matura, che lo affianca e trasmette il sapere in qualche modo. Attenzione a non trasmettere i vizi, quello è molto interessante. C'è poi un altro aspetto, professor De Masi, che è la concorrenza interna che questa figura inserita in azienda a volte suscita, perché si arriva a una deregulation tale per cui i lavoratori inseriti con contratto magari a tempo determinato vivono male lo stagista, perché temono che sarà colui che annullerà le loro posizioni, le renderà inutili, perché è disposto a lavorare per meno, disposto a lavorare a orari, come lei ha segnalato, molto più lunghi. E si è creata questa distorsione all'interno di molte realtà lavorative e non doveva essere questo lo scopo certo, finale. Una cosa che si può fare è quello che ho sperimentato io, cioè creare un piccolo pool di professori, 4-5 professori che fanno una specie di call center per gli stagisti. Va il giovane in azienda, può in qualunque momento telefonare a questi professori per chiedere consiglio sulle cose che vede, sulle cose che fa, su come deve farle, su come deve vederle, su quali limiti deve mettere al datore di lavoro, chiamiamolo così, sia pure temporaneo, perché spesso, essendo il giovane del tutto indifeso, non è neppure sindacalizzato il più delle volte, e qui si apre un altro capitolo. I sindacati dovrebbero stare molto attenti agli stagisti, dovrebbero seguirli a loro volta per dargli anche una coscienza di persona che ha bisogno di avere il rispetto dei propri diritti. Direi che i soggetti che entrano in gioco sono tre: l'azienda, il sindacato e l'università o la scuola che manda a fare lo stage. E questo dovrebbe riflettersi in una specie di piccola commissione, diciamo, un call center analogo a quello di cui ho sentito parlare all'inizio, ma che in qualche modo accetta le deformazioni, da per scontato che si possa lavorare tante ore e così di seguito. Noi dobbiamo inculcare nel giovane il concetto che il lavoro non è un fine, è un mezzo nobile, un mezzo straordinario, ma il fine è la felicità quotidiana attraverso il lavoro. Ma che strumenti ha un giovane in questa posizione per difendersi, per dire no a delle richieste che siano fuori da questa logica e da questo senso della dignità che lei ha appena descritto, professor De Masi? Si è capito fin dall'Ottocento, cioè si è capito che il lavoratore da solo non ce la fa, è troppo debole rispetto a un datore di lavoro che per forza di cose è molto più forte. Questo ha dato luogo alle difese collettive del lavoratore. Sono difese che in questo momento vengono in qualche modo anche minate da una visione, diciamo, non corretta dell'idea liberale, che invece voleva proprio questa contrapposizione paritetica tra lavoratore e datore di lavoro. Noi abbiamo ormai un sindacato che pensa soltanto a difendere dai licenziamenti, e purtroppo abbiamo dei capi del personale che stanno soltanto a licenziare. Prima ascoltavo l'assessore di Milano che diceva in modo così perfetto qual è il ruolo di una gestione del personale. La gestione del personale in Italia è una delle cose più deficitarie. Le aziende negli ultimi 30 anni si sono evolute fortemente per quanto riguarda la tecnologia, la finanziaria, per quanto riguarda la tecnologia, il marketing. Solo la gestione delle risorse umane è rimasta ottocentesca, ma direi di più: siccome prima i lavoratori nell'Ottocento per il 90% erano lavoratori che svolgevano mansioni fisiche, quindi mansioni che sono state ben curate attraverso il controllo, andavano controllati. Certo, oggi ma era un controllo facile, tot bulloni al minuto. Certo, in termini quantitativi semplicemente. Oggi invece il 70% dei lavori sono lavori intellettuali, non vanno controllati, vanno motivati. Cioè nel lavoro intellettuale il controllo è dall'interno, la porta dell'efficienza è chiusa dal di dentro, quindi bisogna avere la capacità motivante che oggi invece è fortemente trascurata. Molto interessante questa sottolineatura, è chiaro, può essere un'occasione o può essere un'esperienza, come hanno raccontato anche i colleghi di quel ragazzo che ha pagato con la vita questo impegno estremo, l'esperienza più brutta della loro vita, così hanno descritto questo stage, e questo è una perdita di possibilità e di opportunità soprattutto per l'azienda che li ha impiegati. Dovrebbe essere un momento in cui con grande entusiasmo ci si avvicina al mondo del lavoro, se ne carpiscono alcuni segreti, si porta un contributo personale perché si è appena uscite dall'università. Ricordiamo che queste persone sono persone che hanno nel 48% dei casi già una laurea acquisita, quindi persone da cui imparare, che hanno molto da trasmettere. Ebbene, le cifre le avete sentite, in realtà solo meno del 10% di loro al termine dell'esperienza riceve poi una proposta lavorativa. E come è stata la vostra esperienza in linea con quanto abbiamo raccontato finora? Avete delle migliorie da suggerire, interventi che si potrebbero fare? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ce ne andiamo ad Aosta ora insieme, 9:33 minuti, ci aspetta un ascoltatore. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Come si chiama? Luca. Dica Luca, racconti la sua esperienza. No, volevo fare un riferimento, visto che abbiamo anche in Italia uno strumento che è il Fondo Sociale Europeo, che finanzia interventi per i giovani legati agli stage o ai tirocini, che purtroppo, da quelli che sono i dati e gli indicatori, questi strumenti vengono stravolti nel nostro paese. E il problema non è solo relativo al cattivo utilizzo degli stagisti e a rovinare loro un'esperienza che potrebbe essere realmente un'esperienza importante di vita, sì, ma vengono utilizzati spesso per avere una manovalanza a basso costo. Quindi nell'esperienza, diciamo, nella gestione di questi strumenti, anche il Fondo Sociale conferma che lo Stato membro Italia non riesce a governare questo strumento. Quello che sentivo in trasmissione, cioè che spesso i lavoratori con contratti a termine vivono lo stagista come un possibile rivale, è effettivamente vero, ma non solo. Spesso avviene che imprese, quando trovano stagisti, diciamo, di qualità, cerchino di riutilizzare lo stesso stagista con un'altra impresa, con una ragione sociale diversa, in modo da continuarlo a mantenerlo in questa situazione di precariato e bypassando quelli che possono essere i possibili controlli sull'utilizzo dei finanziamenti che poi loro ottengono per mantenere in stage questi ragazzi. Grazie Luca. Un'anomalia tutta italiana, purtroppo. Anche questo è vero, anche se l'intervento recentemente del sindaco di New York, Bloomberg, che ha imposto il pagamento delle internship, ha dato una tirata d'orecchie al pubblico e alla pubblica amministrazione, anche da quelle parti ci ha fatto capire che questo vizio dell'abuso di questo tipo di figure non è un vizio solo nostrano. Eleonora Voltolina, tu che hai appunto il polso di tutta la situazione e di ciò che sta succedendo in Italia, hai sentito quello che ci ha segnalato l'ascoltatore? Sì, è un'osservazione molto acuta, è vero questo giochino che spesso si fa con le ragioni sociali o a volte anche solo con, magari per fare una proroga che non sarebbe permessa, farla apparire come se lo stagista venisse spostato in un altro ufficio, cosa che invece poi non avviene nella realtà. Volevo poi agganciarmi anche al discorso che faceva il professor De Masi, perché vorrei sgombrare il campo da ogni dubbio. Noi siamo una testata giornalista che difende quotidianamente, diciamo, i diritti degli stagisti e cerca di realizzare quella filosofia win-win di cui parlava l'assessore Visconti all'inizio della puntata, cioè far convergere gli interessi delle aziende più virtuose in Italia con gli interessi dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Il discorso sugli orari di lavoro non voleva assolutamente essere un'incitazione ai giovani ad accettare di lavorare in stage 12-13 ore al giorno, era solo una riflessione su sul fatto che alcune professioni hanno determinati orari e che quindi forzare lo stagista, far pensare allo stagista che possa utilizzare l'orario classico 9-18 in qualsiasi situazione lavorativa è sbagliato, perché poi magari invece lui arriva convinto di stare dalle 9 alle 18 e si rende e magari si sente penalizzato perché vede che l'orario è diverso. È ovvio che noi consigliamo a tutti gli stagisti di mantenersi intorno alle 8 ore al giorno. Tra l'altro c'è un documento che sancisce l'avvio di ogni stage, che è la convenzione di stage, il progetto formativo, dove dovrebbero essere comunque sempre riportati gli orari indicativi di lavoro, tra virgolette, dello stagista. Grazie, detto questo, Eleonora. Questo, volevo dire un'ultima cosa rispetto. E tra poco la dirai, perché rimarrai con noi fino al termine della trasmissione. Abbiamo qualcuno però che se ne deve andare. Federico, buongiorno da Verona, è un insegnante universitario. Questo è un punto di vista molto importante. Buongiorno, perché siete voi poi come università quelli che maggiormente immettono i giovani all'interno nelle corsie delle aziende, a volte come stagisti, appunto. Voi che controllo esercitate poi che il ragazzo o la ragazza stia completando la sua formazione in maniera corretta? Volevo ribadire, anche riprendendo quello che diceva il collega De Masi, l'importanza intanto della scelta ma preliminare della sede dello stage, che questa l'università è tenuta a fare e deve essere fondamentale, cioè non è che qualsiasi sede va bene, deve essere scelta accuratamente attraverso un legame al profilo formativo, al percorso formativo. Dopodiché esiste la possibilità, sia in corso di esecuzione dello stage, ma sia soprattutto al termine, allo stagista deve fare una relazione finale dalla quale si capisce se quella sede va bene o se è una sede che si deve dimenticare e non più autorizzare. Quindi è importante, sì. È importante che lo stagista poi faccia questa sorta di relazione, di report in cui racconti come ha vissuto questa esperienza. Ci sono però università che non sono organizzate per riceverle queste relazioni, non ha la possibilità poi di esaminarle, non so come siate messi. Lei dove insegna? A Verona? Io insegno la scienze motorie a Verona, sono responsabile, quello che una volta sarebbe chiamato preside, adesso non sono più preside, ma diciamo responsabile dei corsi di laurea. Noi abbiamo un numero consistente di ore da dedicare allo stage, cioè sono varie decine di crediti nel nostro programma formativo, e quindi c'è una struttura che si chiama commissione tirocini, per l'appunto, quindi tirocini di stage, che fa questo lavoro sia preliminare, e ribadisco è fondamentale che venga fatto bene quello prima di dare di autorizzare una serie, sia anche quello di verifica dopo che è stata svolta l'esperienza. Grazie al preside della facoltà di scienze motorie di Verona che ci ha chiamato. Gianpaolo Calcari, buongiorno. Buongiorno a voi. Gianpaolo Calcari è responsabile delle risorse umane di un'altra di quelle aziende che ha passato a pieno l'esame di azienda virtuosa. Sto parlando della Procter & Gamble. Ha sentito cosa hanno detto sui direttori di risorse umane? Non si è attrezzati, non si è nel XXI secolo, tranne alcune eccezioni. Perché cosa dovrebbe fare un responsabile delle risorse umane oggi? Di quali strumenti dovrebbe avvalersi? Che criteri dovrebbe utilizzare per l'inserimento di stagisti e soprattutto per valutare se questo giovane inserito in azienda è seguito e sta facendo di quell'esperienza qualcosa che non si trasformi in un incubo o in un semplice sfruttamento? Di nuovo, buongiorno a tutti. Ottima domanda, ottimo spunto. Credo che la responsabilità del direttore, responsabile delle risorse umane, attenga a quelli che sono i valori etici dell'azienda. Nell'ambito specifico, come introdurre e come gestire i contratti di stage. È un'area molto delicata. Un'area molto delicata, non solo in Italia, ma direi abbiamo una sindrome di mal gestione degli stagisti un po' in tutto il mondo. Perché è visto un po' come un elemento da sfruttare, piuttosto sul quale costruire quello che può essere un profilo, una capacità, un talento per il futuro. E quindi è una fase importante di educazione da parte del direttore di risorse umane, responsabile di risorse umane, attraverso tutta l'organizzazione. Educare i leaders, educare i managers, educare le persone su come gestire e prendere in casa uno stagista. Uno stagista è il futuro. è il potenziale talento del futuro, il potenziale successo dell'azienda. Se si riesce a capire quali sono i talenti delle persone e poter costruire su di essi. Una delle scusi, la fermo perché ci arrivano degli stimoli al 349-238-6666, cioè via SMS, da parte di ascoltatori che ci dicono: ma perché dovremmo pagarli? Sono loro che vengono a prendere da noi delle esperienze, sanno fare poco o niente, questo è il caposervizio di una redazione di un quotidiano, dice, e noi abbiamo questo tipo di, insomma, utilizziamo stagisti da anni e devo dire che l'esperienza è sempre quella, non, praticamente vengono a studiare, non hanno, dice Guido, nessuna diritto a essere retribuiti perché siamo noi che diamo a loro e non loro che danno a noi. Cosa risponde Giampaolo? Io ho una visione un pochino diversa, mi è piaciuto molto, credo l'assessore l'abbia detto prima, il concetto del win-win. Noi abbiamo molto come azienda da imparare dai giovani. I giovani portano in azienda, anche se le loro capacità sono veramente embrionali all'inizio, portano una nuova mentalità, una nuova cultura, freschezza, portano tantissima energia, che è un veicolo importantissimo per la struttura interna, quella stabile se vogliamo. Quindi noi prendiamo, se vogliamo prenderla così può essere un po' cinico, ma prendiamo molto dai giovani e cerchiamo di dare anche ai giovani, in un processo in cui si cresce insieme. Può sembrare assurdo questo, però oggi le generazioni cambiano rapidamente, la cultura veramente a livello globale si evolve a ritmi molto più incessanti, molto più veloci nel passato, e se non cavalchiamo l'onda rischiamo di essere buttati fuori. Quindi per noi è importante avere generazioni nuove all'interno dell'azienda, sotto come stagisti, poi che si possono evolvere, no, con ingressi permanenti e così via, perché per noi è importante essere in contatto con le nuove generazioni, con i giovani. I giovani hanno una potenzialità incredibile e danno moltissimo, quindi è un dare e avere. E mi piace questo paradigma, mi piace questo tipo di concetto, perché noi... Ma come li motivate? Perché ha sentito un'affermazione molto efficace e molto moderna, visto che parliamo di innovazione, di modernità e di figure che sono il prodotto dei tempi oggi. Una volta i lavoratori in qualche modo andavano controllati, o almeno così si riteneva, ora vanno motivati quando si parla di terziario, di servizi. Come li motivate o come pensate di motivarli alla Procter & Gamble? Io vedo due variabili. Una, il rispetto della dignità della persona, e quindi fin dal primo giorno rispettare la persona come lavoratore e, legandoci al concetto del lavoro, dare responsabilità con il giusto tutorship, con il giusto follow up eccetera sin dal primo giorno. Gli stagisti da noi vengono integrati direttamente nell'organico aziendale, hanno dei progetti da seguire, quindi hanno responsabilità, hanno progetti. Assolutamente, assolutamente sì, loro hanno dei progetti che altrimenti noi non potremmo svolgere, sia per una questione di competenze, perché è vero che lo studente universitario arriva qui, come abbiamo detto prima, non capace, dobbiamo costruirlo, ma invece porta dei valori, porta all'interno una competenza, delle conoscenze, che per noi a volte sono importanti. Quindi hanno dei progetti sin dal primo giorno, ovviamente hanno un tutor, ma vengono inseriti all'interno del tessuto organizzativo dell'azienda, quindi partecipano alla vita aziendale con noi. Hanno un tutor e hanno anche un compenso in questo caso. Sì, hanno uno stipendio, se vengono da fuori hanno anche l'alloggio. E hanno una possibilità di venire confermati o inseriti in azienda? Assolutamente sì, ovviamente non riusciamo a inserirli tutti. Però siamo intorno a un buon dal 40 a un 50%, non sempre in Italia, è un'azienda globale la nostra, quindi laddove possibile noi possiamo offrire anche delle posizioni all'estero, cosa che è molto apprezzata dalle persone giovani perché vogliono avere un'esperienza internazionale e quindi no. Chiaro. Grazie, grazie al responsabile delle risorse umane di Procter & Gamble, Giampaolo Calcari, come avete sentito, una delle aziende in cima alla classifica di aziende virtuose stilata proprio dalla Repubblica degli Stagisti. Tra pochissimo torneremo insieme a 800 24 00 24. Ci sono anche degli stage, per esempio quelli a Google, pagate 4.300 euro al mese, proprio nell'ottica, 5.800 dollari, poi la conversione porta più o meno a questa cifra, nell'ottica, dicevamo che il giovane che arriva è una risorsa, porta già di per sé col suo ingresso, con la sua presenza, col suo linguaggio, dei valori che l'azienda altrimenti perderebbe. E Google, un'azienda che è costretta proprio per la natura di quello che fa a essere sempre non solo aggiornata ma addirittura ad anticipare le tendenze, fa di queste risorse un po' un fiore all'occhiello, vengono trattati benissimo non solo dal punto di vista della remunerazione, perché una delle aziende che per prima ha capito che importanza possa avere per rimanere sul mercato il formare i giovani, formare i neolaureati. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E c'è anche chi propone lo stage, fatelo fare agli insegnanti, ed è un insegnante, ci scrive al 349-238-6666, ancora buongiorno, 10 minuti ancora insieme, io sono Irene Zerbini e con noi Domenico De Masi, Eleonora Voltolina e i nostri ospiti. Soprattutto ci siete voi gli ascoltatori che aspettate di parlare, cerchiamo quindi di capire quali sono state le vostre esperienze. Da una parte si racconta quello che lo stage dovrebbe essere, dall'altra parte la realtà. Buongiorno Gabriele, pronto? Buongiorno a voi, grazie per lo spazio. Lei ha avuto un'esperienza personale? Sì, io ho frequentato la facoltà di scienze motorie, anche riallacciandomi all'ospite che avete avuto, sì, da Verona. Sì. E devo dire che l'esperienza è stata assolutamente negativa, in quanto noi, io e altri miei colleghi, allora studenti, venivamo mandati in associazioni sportive, società sportive, fianco a fianco con ragazzi che avevano semplicemente frequentato un corso CONI di poche ore, e nulla ci veniva fatto fare del lavoro che non veniva fatto fare agli istruttori che momentaneamente erano assenti, e facevamo delle semplici sostituzioni. Non c'era alcun tipo di controllo o di crescita. Di formazione. Non c'era il tutor. Sulla carta veniva dichiarato un tutor, come avviene in molte altre facoltà, poi in mancanza di controlli, mancanza di, diciamo, collaborazione fra università e aziende, questo passaggio era saltato. Solo teorico. Proprio disinvoltamente saltato. Grazie per questa testimonianza. Arrivava da Roma, dove c'è anche un ex ministro del lavoro, Cesare Damiano, buongiorno. Buongiorno. Ecco, Cesare Damiano, benvenuto. L'abbiamo disturbata perché lei, proprio da ministro, no, aveva... Non l'avete disturbata, ci mancherebbe. L'abbiamo coinvolta. L'abbiamo coinvolta perché... Lei proprio aveva una posizione molto ferma, invocava una revisione legislativa di tutto il settore e dichiarò in un'intervista: lo stage ormai è manodopera non pagata senza formazione e col tempo andrebbe abolito. La pensa ancora così? Ma guardi, abbiamo sentito alcune testimonianze, andiamo da Google all'utilizzo di manodopera gratuita, come abbiamo visto, quindi si tratta di discernere. Ultimamente io avevo presentato una proposta di legge con la Repubblica degli Stagisti, ci eravamo anche confrontati con Eleonora Voltolina, che diceva semplicemente di corrispondere un compenso alla francese ai giovani che venivano utilizzati per questi stage, per questi tirocini, di circa 400 euro mensili. Poi il ministro Fornero ha fatto, diciamo, una iniziativa di carattere legislativo, non esattamente questa, però vicina a questa, che esclude i giovani purtroppo che fanno ancora i corsi di formazione universitari piuttosto che le scuole superiori, quindi questo limita molto il campo. Io penso semplicemente questo, che ci sono come sempre gli estremi. Inutile negare che dalle partite IVA finte allo stage utilizzato per avere manodopera gratuita reiterata, questo esiste e andrebbe abolito. Cerchiamo di organizzare un qualcosa di lecito. I giovani vanno selezionati, la persona che intende utilizzare lo stagista guardi qual è il giovane che vuole utilizzare, quali sono le sue caratteristiche, qual è il suo percorso di formazione, i suoi risultati scolastici, lo utilizzi, gli dia quella formazione necessaria, un compenso per il lavoro svolto. Si tratta di un compenso, non è uno stipendio, non è equiparabile allo stipendio, questo è un percorso che avvicina al lavoro, una successiva assunzione magari con l'apprendistato o con altre forme di lavoro, ma non possiamo pensare che ci sono buone imprese. Abbiamo sentito la Procter & Gamble che ha una modalità che viene elogiata, io condivido questo, ci sono però anche cattive imprese che pensano che, non so, la redazione del giornale magari di provincia e non soltanto, che utilizza sempre queste persone all'infinito, quindi le sostituisce di volta in volta, avendo in questo modo, come si dice, un risultato di lavoro senza nessuna spesa. Ma a questi nostri figli e nipoti, a questi giovani, vogliamo dare una qualche certezza, una prospettiva minima? La prospettiva. Lei infatti ha usato il termine forse cruciale di tutta questa esperienza, perché al di là dei rimborsi, che vanno di solito da poco meno di 250 euro in Italia a oltre 750, ma in quel 56% dei casi in cui vengono erogati, perché in realtà moltissimi non ricevono proprio nulla. Al di là dei rimborsi, quando si parla con gli stagisti, soprattutto si vorrebbero questi ragazzi avere una prospettiva. Esatto. Guardi, io credo molto, come si dice, all'inserimento in un percorso. Io non penso più, come ho pensato forse 40 anni fa, che il lavoro deve essere immediatamente a tempo indeterminato. La mia generazione, se facevi l'impiegato dopo un mese eri confermato, se facevi l'operaio bastavano 15 giorni ed eri confermato e rimanevi per tutta la vita in quell'impresa. Sappiamo che quel modello non c'è più. Non esiste. Però non vale neanche l'opposto, che a questo punto ti prendo, ti lascio quando mi garba, ti pago se voglio e ti faccio fare gli stage e i tirocini fino a quando hai 40 anni. Eleonora Voltolina, grazie a Cesare Damiano. Eleonora Voltolina, e quando i giovani si rivolgono a voi, perché avete 250.000, 300.000 contatti, cioè nessuno come voi ha il polso della situazione in Italia, cosa lamentano di più? La mancanza di salario, la mancanza di prospettiva? Quali sono le richieste? Ma direi che sicuramente lo stage gratuito è ancora uno degli aspetti più odiosi e odiati dai giovani, e poi sicuramente la prospettiva, come dicevate voi, nel senso della possibilità di essere assunti se si dimostra il proprio valore. Io vorrei chiudere il mio piccolo intervento lanciando un appello anche alle aziende. Le aziende non si rendono conto che è tutta reputazione per loro la capacità di trattare bene i giovani, di inserirli in azienda a condizioni dignitose. Noi abbiamo stilato la carta dei diritti dello stagista e spontaneamente durante gli interventi che oggi avete avuto dai vostri radioascoltatori sono emerse proprio i principi espressi in questa carta: non utilizzare gli stagisti come sostituzione di ferie, di maternità, dargli un tutor che li segua non solo sulla carta ma anche nella realtà, dargli un compenso per riconoscere il loro apporto, il tempo e l'energia che dedicano allo stage, dare la possibilità, laddove possibile, di essere contrattualizzati al termine dell'esperienza formativa, magari con un contratto di apprendistato. Quello che le aziende, il professor De Masi diceva, gli uffici risorse umane sono un po' arretrati in Italia. Ecco, io penso che l'arretratezza stia soprattutto nella non capacità della grande maggioranza delle aziende in Italia di capire che dentro la gestione delle risorse umane e nello specifico dei giovani, degli stagisti, c'è la reputazione delle aziende, c'è una fetta importante dell'immagine che ogni azienda dà di sé, e quindi è fantastico, importante molto anche bella una responsabilità sociale. E conviene loro. Domenico De Masi, vorrei concludere con lei. E come sarebbe dunque un responsabile delle risorse umane intelligente, efficace? Ma io credo sarebbe una persona che riesce a dare allo stagista un'idea precisa di che cosa lo stagista vuole fare nella vita. perché se non si orienta il giovane, tutto ciò che viene dopo è inutile. Grazie. Diceva Seneca, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare. Grazie, grazie anche per questa conclusione. Grazie a Domenico De Masi, a Chiara Bisconti, a Eleonora Voltolina, a Giampaolo Calcari, a Cesare Damiano e naturalmente grazie in primo luogo alla persona che è stata più fondamentale per la creazione anche questa settimana di questa trasmissione, la stegista Benedetta Acri, qui con me, qui di fronte, e Alessandro Longoni in redazione. Grazie anche alla regia Paolo Corleoni, da Irene Zerbini. Appuntamento a lunedì.